da dire, la loro ma per finire. Non mi si spiega che ho provato nel vederti partire, tu che sai finire le mie frasi con le rime che non ho usato mai. Mi dici fallo if you like. Standing at the sun, I can see the light. Whoa. Solo un nome, zero confusione attorno, sai è come che non passerai. Non sei la distrazione, non spreco l'occasione. Se perdo tutto vivrò del resto, ma rimpianti mai. Sopra i tuoi pensieri io ci metto il becco, anzi guardo attorno e mi diverto, occhio aperto su ragazzine così vuote che rimbombano quando piove, che finiscono frasi colti nove, né quei sogni sono lati lover, ne ho le prove. Ogni giorno mi sveglio con Space Girl 9, si carica l'atmosfera, se c'è gente positiva, la mia notte non lo sai, che continua ancora da quella prima. Mi piace stare bene, che vuoi che dica, ne bevo mani piene di questa vita e dopo si vedrà che non è mai finita. So you are my sun, let me see your light. Whoa. Solo un nome, zero confusione attorno, sai è come che non passerai. Non sei la distrazione, non spreco l'occasione. Se perdo tutto vivrò del resto, ma rimpianti mai. E non importa se mi dici di no, ti piace il gioco, ok, sono in posizione on, capito no, e capito l'ho innanzi a te mentre avanzi verso medico, ah yeah. Tra le pieghe flash del tuo vestito, puoi chiamarlo istinto, ma io mi avvicino, incontro il mio destino, faccio un bel inchino, rompere il ghiaccio, un bicchiere di vino. Mi faccio di filosofia, manco fossi in terapia, ma la vita come la fai? 99% questa è mia. Mi piace se conviene, che vuoi che dica, ne bevo mani piene di questa vita e dopo si vedrà se è vero che è infinita. So you are my sun, let me see your light. Whoa. Solo un nome, zero confusione attorno, sai è come che non passerai. Non sei la distrazione, non spreco l'occasione. Se perdo tutto vivrò del resto, ma rimpianti mai. Solo un nome, zero confusione attorno, sai è come che non passerai. Non sei la distrazione, non spreco l'occasione. Se perdo tutto vivrò del resto, ma rimpianti mai.